È stata un'operazione congiunta tra polizia, carabinieri e parà della Folgore a portare al fermo di 7 presunti scissionisti dei Casalesi. Sarebbero affiliati e fiancheggiatori del gruppo che fa capo al boss Giuseppe Setola, la primula rossa dei Casalesi, ancora una volta sfuggito alla cattura. Per gli inquirenti si tratterebbe degli autori della strage di immigrati avvenuta lo scorso 18 settembre a Castel Volturno. Decisive le rivelazioni del collaboratore di giustizia Oreste Spagnuolo. Tra gli arrestati anche Bernardino Terracciano, uno degli attori del film Gomorra, che in pratica nella pellicola interpretava se stesso. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, detenzione illegale di armi e strage. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli.